Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata, ben ritrovati da Deborah Rosciani e Salva Danaio. Ricominciamo una nuova settimana, ne abbiamo ancora tre prima delle meritate ferie vostre, da me naturalmente, se qualcuno mi vuole abbandonare, ma poi ritorneremo a settembre naturalmente, non abbiate paura. Oggi di cosa parliamo? Salva Danaio, abbiamo ormai consolidato la tradizione di presentare le guide operative del lunedì del Sole 24 Ore. Oggi ne esce una che appassionerà e interesserà moltissimi di voi. In realtà questo interesse è già abbastanza intenso attraverso il canale online che appunto il Sole ha aperto per le vostre domande. Adesso vi spiegheremo come fare. Risparmio energetico, istruzioni per l'uso, la casa diventa più verde, dalla villetta al condominio, le soluzioni per alleggerire le bollette e sfruttare i bonus. Come vi dicevo, c'è la consueta modalità di interazione per i lettori del Sole, ma anche per gli ascoltatori di Radio 24, che possono inviare quesiti collegandosi al sito del Sole 24 Ore, www.ilsole24ore.com/barrette di traverso. Risparmio trattino energia, questa volta c'è un desk, veramente una task force di 10 esperti pronti a rispondere alle vostre domande, risposte che saranno pubblicate a partire da domani sul Sole 24 Ore. Questa mattina con noi ritorna Cristiano Dell'Oste, che ha coordinato questa uscita. Cristiano, bentornato. Buongiorno a tutti. Le risposte sono anche sul sito, peraltro non mi ricordo mai questa modalità. Sì, le mettiamo poi online a partire da mercoledì. Benissimo. E le mettiamo tutte, perché ne arrivano talmente, stanno arrivando tante già stamattina, vero? Eh sì, questo è un tema che attira sempre interesse e curiosità. Esatto, diciamo che tra i mutui e le pensioni, insomma, sono temi che davvero lottano tra di loro per avere il primato e l'interesse degli ascoltatori. E poi gli altri nostri due esperti per rispondere ai vostri quesiti su tutti i temi del risparmio energetico, quanto costa fare la certificazione energetica, e ci sono tanti altri aspetti appunto che vi interessano. Torna con noi l'ingegner Valeria Erba, presidente dell'ANIT, l'Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico ed Acustico. Bentornata, buongiorno. Buongiorno a tutti. E bentornato anche a Luca De Stefani, perché non potevamo farci mancare ovviamente il commercialista, perché poi se abbiamo degli vantaggi anche fiscali in qualche maniera dobbiamo confrontare i costi che sosteniamo per questi lavori di manutenzione straordinaria della nostra abitazione, farli confrontare con la dichiarazione dei redditi. Buongiorno a Luca De Stefani, esperto in materia fiscale per il Sole, bentornato. Buongiorno a tutti. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi, le vostre domande, le vostre curiosità. 349 238 6666, se volete utilizzare la modalità SMS. La borsa stamattina ha poco da raccontare, giornata come la definisco molto spesso, senza infamia e senza lode. Borse che si stanno muovendo intorno alla parità da questa mattina, quindi la possiamo senz'altro definire una seduta di consolidamento dei rialzi abbastanza forti di settimana scorsa, quando le borse hanno brindato alle anticipazioni dei risultati degli stress test delle banche europee, risultati che conosceremo il 23 luglio. Speriamo che questi risultati non deludano le aspettative, che fino ad ora sono state positive. E questo è il quadro di stamattina: Parigi in leggera flessione, -0,11%, Francoforte in leggero rialzo, +0,09%, Londra +0,22%, Milano -0,15%, quindi strade differenti per le borse europee. Fiat, miglior titolo di Piazza Affari, +2% in una giornata che vede buoni spunti su tutto il comparto auto in tutta Europa. Fiat premia probabilmente anche il ritorno della produzione della Panda Pomigliano d'Arco. STM +0,9%, Exor +0,48%, Mediolanum e Generali in rialzo dello 0,4%, +0,3% per Campari e Saipem. Segno meno invece per Mediaset in questo momento, che guida i ribassi, -1,27%, Banco Popolare -1,18%, in ribasso di un punto per un bel gruppo di titoli: Pirelli, Italcementi, Popolare di Milano e A2A. Euro su dollaro a 1,2561, appuntamento importante di questa giornata, l'avvio della stagione delle trimestrali americane, come sempre si comincia negli Stati Uniti appunto con Alcoa stasera a mercati chiusi. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi e ritorniamo a parlare del risparmio energetico delle nostre case. Sono sempre di più gli italiani che, ristrutturando la propria casa, si affidano alle soluzioni di risparmio energetico. Sostituire, ad esempio, la caldaia comune di un condominio con un sistema dotato di tecnologia di termoregolazione e contabilizzazione permette ad ogni inquilino di pagare ciò che realmente utilizza, programmando e conteggiando consumi differenziati per ogni appartamento e perfino per ogni stanza. Se prima ancora si provvede all'isolamento termico di un'abitazione, la spesa per il suo riscaldamento risulterà ancora più bassa. Un sistema ecosostenibile, dove tutto è studiato per garantire consumi minimi ed efficienza massima, oltre ad alleggerire le bollette e a garantire un maggior comfort, fa aumentare il valore complessivo dell'immobile. Naturalmente si risparmia di più in base alla qualità del progetto studiato e dei componenti scelti, ma molto dipende anche dallo stato iniziale degli edifici e degli impianti. Partendo da una condizione poco sostenibile, ci si accorgerà prima dei benefici apportati dall'investimento fatto. Per questo è fondamentale la fase della diagnosi energetica, un'analisi attenta dell'abitazione che permette di individuare le opere da privilegiare, quelle cioè che garantiranno un più vantaggioso rapporto costi-benefici. Tra il 2007 e il 2009, circa 590.000 contribuenti hanno approfittato delle detrazioni del 55% per interventi di questo tipo e dovrebbero aggiungersene altri 240.000 entro la fine del 2010, termine ultimo per usufruire di questo bonus. Dal 2011, infatti, resteranno in vigore soltanto le detrazioni del 36% per le ristrutturazioni edilizie. Tema di cui stavamo discutendo a microfoni spenti proprio con Cristiano Dell'Oste, perché visto che io prima o poi a casa mia dovrò mettere le mani, Cristiano, ci stavamo chiedendo, insomma, Cristiano mi suggeriva sbrigati almeno per gli infissi, perché poi il bonus, il vantaggio fiscale del 55% a fine anno scade e ci sono ben poche speranze che questo incentivo venga rinnovato. Cristiano, chissà. Diciamo che i produttori di serramenti, gli installatori, i produttori anche delle altre categorie di prodotti agevolati, come ad esempio le caldaie e così via, chiedono e chiederanno la proroga. L'Enea, che è l'ente che riceve le pratiche, è soddisfatto dei risultati che sono stati ottenuti e ha documentato una serie di risultati. E certo, non è mica l'Enea che mette la mano al portafoglio, soddisfatto, sì. Esatto, il problema è piuttosto nel finanziamento di questa misura, che è comunque una misura costosa per l'erario. Anche se c'è da dire una cosa, una considerazione che fanno spesso rilevare i produttori e gli installatori, è che alla fine buona parte della spesa si ripaga, e si ripaga anche per il fisco, perché c'è un'emersione di lavori che magari rimarrebbero in nero, e questo genera comunque un maggior gettito che in qualche misura non si sa se al 100%, al 90%, all'80%, questo purtroppo è sempre un po' imponderabile, ma che in qualche misura va già a coprire il costo per il fisco. Quindi diciamo, chi fosse in dubbio e chi ha la possibilità di avviare i lavori farà bene a farlo e a cercare di rientrare entro il 31 dicembre. È certo che dopo l'estate il pressing per la proroga con ogni probabilità aumenterà. Tra l'altro diamo subito un suggerimento pratico per chi magari dovesse cominciare i lavori alla fine dell'anno e teme di non poter più usufruire di questo incentivo fiscale: potrebbe tranquillamente, dovesse rinnovare gli infissi ad esempio, farsi fare un preventivo, comprare già, magari prenotare il materiale da utilizzare, quindi per esempio la nuova finestra, e magari tranquillamente fare i lavori successivamente, però fare una fattura che faccia fede appunto il pagamento che è avvenuto entro il 31 dicembre. Diciamo che il momento diciamo ciò che deve avvenire entro il 31 dicembre è che vale diciamo il momento in cui viene sostenuta la spesa, quindi entro la fine dell'anno va effettuato il bonifico, il pagamento in sostanza. I pagamenti effettuati entro fine anno funzionano e beneficiano del 55%, gli altri, nel caso non venisse prorogata la detrazione, potranno avere soltanto il 36%, che è la detrazione, questa invece prorogata già fino alla fine del 2012 e che vale anche per le opere finalizzate al risparmio energetico. Allora, a proposito dell'incentivo fiscale, c'è una novità che è stata introdotta dalla manovra correttiva 2010, parte dal 1 luglio, e me la faccio spiegare subito da Luca De Stefani, perché De Stefani, di nuovo buongiorno, ci sono alcuni ascoltatori che ci stanno già chiedendo chiarimenti su questa novità, avendone sentito parlare ma non avendo nessun dettaglio e nessun contorno preciso rispetto a questa misura presa dal governo, che ha previsto che sui bonifici bancari o postali che vengono effettuati dai contribuenti per appunto pagare le spese sulle quali riconoscersi poi queste detrazioni d'imposta delle quali abbiamo parlato fino ad ora, 36 e 55%, in sostanza le banche e le poste sono tenute ad operare una ritenuta d'acconto del 10%. Cosa significa questo e in sostanza che tipo di effetti pratici avrà, anche non credo però sul contribuente che mira all'ottenimento dell'incentivo fiscale? È vero, Per quanto riguarda il contribuente che sostiene le spese del 36 e del 55%, questo soggetto non ha nessuno svantaggio da questa nuova normativa relativa alla ritenuta d'acconto, in quanto è una ritenuta d'acconto applicata dalla banca del beneficiario del bonifico, quindi l'artigiano che ha fatto i lavori di ristrutturazione oppure gli interventi per il risparmio energetico, e è un anticipo delle tasse che questo soggetto andrà a pagare l'anno successivo. Quindi si tratta di una vera e propria ritenuta di acconto, è del 10%, non è una tipica ritenuta di acconto del 20%, viene applicata appunto dalla banca direttamente, e quindi chi ha effettuato i lavori e ha sostenuto questi lavori per il 36-55% non deve fare nessun particolare adempimento, in quanto sarà la stessa banca di chi riceve il bonifico che tratterrà questo importo e lo verserà allo Stato con un F24. Ha creato qualche malumore fra i professionisti questa misura, Cristiano? Che ti risulti? Ma qualcosina, forse tra le imprese, ma diciamo che c'è qualcuno che ha paventato la possibilità che in qualche modo questo 10% che io, impresa, non mi vedo accreditato, perché di fatto questo accadrà, qualcuno potrebbe dire beh, allora faccio un piccolo ricarico sulla, sulla fattura a carico del cliente. In realtà di segnalazioni che questo stia avvenendo per ora non ce ne sono giunte. C'è anche da dire che non facciamo venire l'idea. C'è anche da dire che sono passati veramente un paio di settimane neanche dal momento in cui questa ritenuta è operativa, quindi bisogna aspettare un pochino. Allora, prima di sentire Valeria Erba, volevo sentire Luca da Montecatini Terme, perché Luca, come ha sentito, abbiamo affrontato già il tema che credo volesse essere al centro della sua domanda, ma se ha bisogno di ulteriori precisazioni siamo qui. Buongiorno. Sì, buongiorno a tutti voi e grazie per il vostro contributo alla nostra informazione. Sì. No, niente, io francamente penso di avere scansato il problema, perché per me avevo capito che forse era una tassa messa sul 10% che sarebbe andata, diciamo, a diminuire al 45% l'effettiva detrazione. Quindi ora giustamente avete spiegato in maniera molto completa e molto come al solito inapprezzabile quello che succede a noi che dobbiamo usufruire, nel mio caso, per montare dei pannelli per produzione di acqua calda. Benissimo, le faccio fare, Luca, guardi, sa che faccio adesso? Riprendo Luca De Stefani e gli faccio fare un esempio così capiamo davvero tutti. De Stefani, io rifaccio fare il bagno, ci metto dentro anche la caldaia, spendo in tutto 8.000 euro, pago l'impresa naturalmente come sempre con un bonifico bancario o postale, ma naturalmente questa è la cifra che pago, io non devo pagare un 10% in più perché c'è questa ritenuta. Ecco, a me contribuente non succede niente, all'impresa verso la quale invece il pagamento è rivolto? Arrivano gli 8.000 euro che corrispondono al totale fattura, quindi punibile più IVA della fattura che ha emesso, quindi arrivano questo importo, però al netto di questa ritenuta d'acconto del 10%. Benissimo. Questo importo poi verrà certificato dalla banca, la banca il prossimo anno invierà una certificazione delle ritenute d'acconto pagate nei confronti di questi soggetti, e questo documento servirà per la dichiarazione di redditi appunto dell'impresa che ha fatto i lavori, per ridurre le tasse da calcolare con l'unico del prossimo anno. Allora, noi adesso ci fermiamo, mi scuso con Valeria Erba, c'era questa novità sulla quale alcuni ascoltatori, vedo che ce ne stanno scrivendo anche molti, ci chiedevano delucidazioni, quindi ci siamo tolti già questo problema, insomma, questa cosa da dover da specificare assolutamente. Adesso andiamo naturalmente anche agli altri temi che invece sono al centro anche della professionista in termini tecnici, non come dire amministrativi o fiscali. 800 24 00 24 è il numero verde appunto che potete utilizzare per i vostri interventi. Sto cercando già di capire anche quali sono i temi che vi interessano di più, proprio anche un ABC della documentazione da presentare per un privato per usufruire della detrazione del 55% per sostituire gli infissi, sicuramente il lavoro più frequentemente fatto all'interno delle nostre abitazioni. Eccoci ritrovati a Salvadanaio del lunedì, copia la guida che esce con il lunedì del Sole 24 Ore, come sta facendo da diversi lunedì a questa parte. Oggi ne esce una che è al centro di un largo interesse da parte degli ascoltatori, la guida risparmio energetico per la propria abitazione. La casa diventa più verde, dalla villetta al condominio, le soluzioni per alleggerire le bollette, sfruttare i bonus, e affrettiamoci perché quello che ci permette di risparmiare il 55% della spesa proprio per migliorare l'efficienza efficienza energetica della nostra casa termina alla fine dell'anno ed è abbastanza improbabile, almeno secondo le indiscrezioni che abbiamo fino a questo momento, che venga prorogato. Chissà che ministro Tremonti non trovi qualche fondo da destinare a questo, ma insomma lo sapremo solo fra i prossimi mesi, nei prossimi mesi. Cristiano Dell'Oste con noi questa mattina del Sole 24 Ore, che ha coordinato questa guida, l'ingegner Valeria Erba, presidente dell'ANIT, l'Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico ed Acustico, che non ho ancora sentito, adesso la sento, Luca De Stefani, esperto in materia fiscale per il Sole 24 Ore. Erba, un tema, quindi ci siamo, a lei, che abbiamo affrontato di frequente quando l'abbiamo invitata a Salvadanaio, è stato quello dell'obbligo di allegare da qualche mese a questa parte ai rogiti, cioè nell'atto di compravendita delle abitazioni, quella pagella energetica della casa, la certificazione energetica, che ha turbato un po' i sonni di molti, perché in molti credevano di dover fare chissà che cosa. In realtà poi non c'è nessun obbligo a farlo, a meno che proprio non si venda la casa, però ci si può sempre togliere una curiosità per capire in media quanto consuma la nostra abitazione. Sì, in realtà l'attestato di certificazione energetica non è obbligatorio più per legge, perché è stato abrogato un articolo che lo rendeva obbligatorio nel caso delle compravendite di immobili. Tuttavia una guida dei notai, e comunque i notai lo richiedono all'atto dell'acquisto, delle vendite delle case. No, infatti, perché adesso già stavo sobbalzando sulla chiesa, mi sono persa questo provvedimento che addirittura ha abrogato l'obbligatorietà, poi mi spiegherà meglio. Sì, sì, è stato abrogato già l'anno scorso, in realtà poi dopo è richiesto comunque da tutti i notai, perché comunque l'obbligo di farlo permane, nel senso che tra acquirente e venditore, se io acquisto un immobile, il venditore è obbligato a rilasciarmi questo documento. Che questo documento sia poi allegato a un atto notarile o quant'altro, questo poco importa, perché comunque l'obbligo di rilasciarlo c'è e permane comunque. Il fatto che poi dopo a quel punto i notai abbiano deciso comunque di richiederlo è una cosa che viene di seguito, perché comunque io sono obbligato a farlo. Ma la cosa più importante è che chi acquista ha tutto il diritto a riceverlo, quindi chi acquista ha tutto il diritto di sapere la qualità energetica dell'immobile che va a acquistare. Quindi a richiedere questa attestata di certificazione energetica. Tra l'altro, che è obbligatorio anche negli incentivi fiscali in determinati interventi, come appunto abbiamo visto. Cristiano, tra l'altro, come dire, ricevere questo certificato, se si acquista una casa di nuova costruzione, magari in questo momento è più facile, gli edifici di nuova edificazione immagino che appunto non abbiano nessuna difficoltà a certificare in questo senso la pagella, certo, dei consumi, certo, della casa, dell'edificio, dell'immobile. Un po' più complicata la situazione invece se si abita in un edificio vecchio, e questo un aspetto sul quale ti soffermi a lungo anche nello speciale, perché il nostro patrimonio immobiliare, lo abbiamo detto più volte, ha un po' di età, un po' datato. Ma certamente sì, anche perché parlavamo di certificazione energetica per le nuove costruzioni, è prevista automaticamente, e bisogna anche dire che per le nuove costruzioni, da un punto di vista di tecnologie disponibili e di possibilità di progettazione, con pochi punti percentuali in più di spesa si riesce a realizzare edifici altamente efficienti, nel senso che quando si costruisce da zero, con un buon progetto, con le tecniche giuste, non costa moltissimo in più ottenere edifici che consumano molta energia in meno. Per questo noi nel pensare questo inserto ci siamo concentrati in particolar modo sugli edifici esistenti, considerando insomma che costruire bene sul nuovo non è poi così difficile e i progettisti capaci di farlo ci sono. Diventa invece un po' più complesso per chi vive in abitazioni monofamiliari e soprattutto per chi abita in condominio capire cosa fare e come per ridurre i consumi. È un esempio banale, ma ci sono condomini in cui la caldaia è vecchia, il sottotetto è mal isolato, mal coibentato, e in cui una sostituzione della caldaia, magari abbinata alla contabilizzazione del calore, può quasi con le valvole termostatiche, con le famose valvole termostatiche, esatto, può facilmente dimezzare la bolletta energetica, quasi unendo da un lato il risparmio dato da un impianto più efficiente, dall'altro il fatto che pagando i propri consumi si è tutti incentivati a tenere magari il riscaldamento un po' più basso. Queste due cose insieme possono dare dei risultati veramente impensabili, a maggior ragione se le si abbina magari a qualche intervento di coibentazione del sottotetto, delle pareti, alla sostituzione degli infissi, che sono opere che spesso possono essere abbinate. Ecco che allora si ottengono dei risultati. Quindi la vera importanza della certificazione energetica, o comunque di una valutazione delle prestazioni dell'edificio, non è tanto quella di avere un pezzo di carta da abbinare alla compravendita, ma è di cercare di capire quali sono effettivamente le prestazioni dell'edificio e dove si può andare a intervenire. E fare in modo che quel pezzetto di carta che arriva ogni due mesi, che è la bolletta della luce o esatto. del gas e quant'altro, abbia, come dire, una cifra più ragionevole. Problemi che qualche volta si fanno un po' fatica a far capire, per esempio, in assemblea di condominio, quando invece ovviamente i condomini, che sono un po' meno documentati su certi argomenti, pensano solamente alla spesa da fare nel breve termine, non ci si mette d'accordo e non si riesce a quantificare esattamente magari quale potrà essere invece certo. il risparmio nel medio termine. Paolo dalla provincia di Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno. Io ho una domanda da chiedere, avevo già chiamato, mi avete già risposto, ma sto discutendo e litigando ancora con il nostro amministratore. Ma guardi, tra l'altro, siccome ho visto che c'è anche il presidente di Assocond, Augusto Cirla, che risponde alle domande degli ascoltatori e dei lettori del Sole 24 Ore sul sito, se non riusciamo noi ad accontentarla, Paolo, gireremo il suo quesito anche all'avvocato Cirla. Ci dica. Abbiamo fatto dei lavori di ristrutturazione, tetti, facciate, alcuni anche isolati, no? In un condominio di una 20 unità abitative sì. all'incirca. L'amministratore dice che la richiesta è stata fatta a nome del condominio con una partita IVA, per cui è stato speso, adesso ipotizziamo 100, e noi possiamo fare la detrazione solo su 46 mila euro e non su tutti 100 mila, perché dice che l'unità abitativa è una, il condominio è uno e non fa casa per casa. Mentre invece a me risulta che come proprietari di casa noi potremmo fare ognuno la dichiarazione di spesa di 46 mila euro. Adesso moltiplicato per 20, unità abitativa non è 48.000, il limite sì. di spese comunque non cambia nulla, la sostanza della domanda non cambia. Allora attenda lì Paolo, De Stefani mi deve aiutare lei in questo senso, chi ha ragione? Ma ha ragione l'inquilino, secondo me, in quanto i 48.000 euro sono da moltiplicare per le unità, per unità abitativa. E questo è il limite massimo per le parti comuni. Mi chiedo come mai ci siano degli amministratori di condominio così ostinati anche nel voler imporre per forza di cose la loro interpretazione delle situazioni, perché voglio dire, si può anche vivere nel non sapere le cose, ma uno che fa questo lavoro. Cristiano, che cosa facciamo fare a Paolo? Gli facciamo scrivere all'avvocato Cirla, magari poi lo contattiamo e cerchiamo di dargli una consulenza un po' più dettagliata. Paolo, se ha tempo, si colleghi al sito del Sole 24 Ore, ribadiamo ancora le istruzioni per l'uso, www.ilsole24ore.com/risparmio-energia e giri una domanda perché poi tra l'altro è possibile inviare le domande per sezioni. Esatto, sì, basta scegliere l'argomento, nel suo caso potrebbe scegliere l'argomento condominio e siamo perfettamente in tema e insomma avrà la risposta. No, infatti, anche perché voglio dire non è una sciocchezza che passi una linea piuttosto che un'altra ai fini assolutamente no, teniamo conto che poi l'amministratore è tenuto per mandato a svolgere la pratica nel modo corretto, quindi dovrà poi una volta eseguiti i pagamenti consegnare a tutti i condomini una certificazione con la quale ripartisce la spesa in base ai millesimi e con quella certificazione ogni condomino potrà andare poi dal proprio commercialista o dal proprio centro di assistenza fiscale, dal proprio CAF e compilare la dichiarazione dei redditi tenendo conto della spesa detraibile. Adesso ho una domanda per l'ingegnere Erba ed è quella di Mirella dalla provincia di Latina. Buongiorno, io devo ristrutturare uno stabile in cui ci sono tre locali che in particolare hanno bisogno di essere coibentati, uno per un soffitto eccessivamente alto, più di 5 metri, e altri due perché hanno invece un terrazzo sopra e poi hanno delle pareti esterne che rendono i locali piuttosto freddi. Allora l'architetto che sta facendo il progetto ritiene che la migliore coibentazione sia di creare un'altra parettina, cioè una camera d'aria, riempiendola eventualmente con lana di roccia. Per quanto riguarda il locale con il soffitto molto alto, di fare una controsoffittatura ricoperta sopra di lana di roccia. Desidero sapere se anche questi interventi godono del 55% e quali attestazioni poi deve fare l'architetto prima e dopo la ristrutturazione. Certo. Oppure sono soltanto i pannelli preconfezionati di polistirene che sono ritenuti coibentanti. Mirella, che padronanza di linguaggio, io sono veramente affascinata dal sentire la descrizione dei lavori che deve fare nella sua abitazione. Io ritengo anche che l'architetto sappia tutto quello che è la documentazione che deve produrre ai fini poi dell'aiuto nei confronti della persona che gli ha commissionato i lavori per fare in modo che questa possa ottenere gli incentivi fiscali. Detto questo, se non lo sa, adesso glielo indichiamo, ma ingegnere Erba, che cos'è la lana di roccia? c'è un materiale minerale naturale che viene, non è tanto morbida da indossare, va bene che insomma che lo indossi una casa, ma noi è meglio che non ce la mettiamo addosso. No, direi di no. Ma il discorso per la detrazione del 55% vale a prescindere se io comunque isolo, per quanto riguarda la parte almeno involucro, isolo l'involucro, ossia le mie pareti verso l'esterno. E quindi nel momento in cui vado a isolare con qualsiasi materiale io utilizzo o con qualsiasi sistema, che sia un isolamento dall'interno come in questo caso, perché intendono fare comunque un isolamento dall'interno piuttosto che uno dall'esterno, che da un verso è sempre preferibile ma molto spesso non è fattibile, è possibile comunque la detrazione. L'importante è che il pacchetto che si va a costituire di parete o di soffitto nel caso specifico abbia una resistenza termica, quindi una caratteristica di prestazione termica tale da sostenere i limiti previsti appunto per il 55%, che sono appunto i limiti indicati nel decreto del 55%. L'importante è che riesca a sostenere questi limiti. Se poi la coibentazione, io non ho capito bene se va a coibentare soltanto un soltanto i soffitti o va a fare una coibentazione globale dei tre locali, nel caso in cui faccia una coibentazione globale dei tre locali, ossia faccia tutta una serie di interventi di coibentazione, magari anche di altre cose, che vanno a ridurre il fabbisogno energetico generale dell'immobile, allora può detrarre tutti gli interventi, non solo l'isolamento, mm-hmm. piuttosto che anche la pratica, rientra in tutto questo ovviamente anche la pratica del certificatore, quindi la pratica professionale può andare in detrazione, quindi anche i costi di questa pratica. Che cosa deve fare? Le cose da fare sono sempre quelle: avere l'asseverazione del tecnico che dice che quello che è stato fatto rientra nei limiti previsti, inviare all'Enea una copia dell'attestato di qualificazione energetica, di certificazione energetica, che in questo caso è obbligatorio, quindi nel caso di isolamenti è comunque obbligatorio l'attestato di certificazione energetica, e poi compilare sul sito appunto dell'Enea le varie schede informative, gli allegati riportati online, sono tutti da fare online. Sì, e questa è la parte dei pagamenti, l'altra cosa importante. In più, ma nel caso specifico non credo che duri tanto tempo questo intervento, perché non mi sembra un intervento grosso, però se l'intervento dovesse estendersi su più periodi di imposta andrebbe inviata una comunicazione all'Agenzia delle Entrate tramite apposito modulo. Ma dato anche che c'è il dubbio che il 55% non ci sarà più nel 2011, allora in questo caso comunque il consiglio che rientri di affrettare il lavoro, le cose, certo, e non tutto in quest'anno. Poi ci rifacciamo, e 90 giorni poi deve inviare per via telematica tutto al sito dell'Enea. Il risparmio energetico della nostra casa al centro della guida operativa, della guida pratica che esce oggi con Il Sole 24 Ore. Come sempre abbiamo rubato questo argomento, lo abbiamo fatto in joint venture con Il Sole 24 Ore, anche noi a Salvadanaio. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, o a Cristiano Dell'Oste o all'ingegner Valeria Erba o a Luca De Stefani per le pratiche, anche per ottenere questi incentivi fiscali. C'era una domanda di Agostino da Padova, che saluto. Pronto? Agostino, buongiorno. Buongiorno a lei. Domanda. Sì. Io ho mia figlia che in pratica ha un reddito bassissimo, non fa denuncia dei redditi. Diciamo che non ha reddito, ok? Sì. Abita in un condominio nel quale chiaramente è proprietaria dell'appartamento e devono rifare la caldaia, rifare l'impianto di riscaldamento eccetera, e farlo nelle condizioni tali da avere diciamo l'incentivo fiscale. Sì. Lei che non fa denuncia di reddito, che non ha reddito, l'aiuterò io, che ne so io, come fa ad avere questo incentivo? Aspetti un po' lì Agostino, allora Luca De Stefani, può incaricarsi Agostino di questi lavori oppure bisogna essere titolari dell'abitazione per poter ottenere l'incentivo? Sì. E quindi in questo caso Agostino è escluso? Eh sì, purtroppo il signore e il padre è escluso in quanto è necessario essere un familiare convivente del soggetto che sia almeno proprietario o comunque inquilino dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Mm-mm. E quindi se non si ha la capienza, come dire, dal punto di vista della dichiarazione dei redditi, purtroppo non si può nemmeno fare la domanda per ottenere questi incentivi, perché proprio valgono i fini IRPEF, in sostanza è l'imposta che viene abbattuta. E questo vale anche per altri ascoltatori che ci fanno più o meno le stesse domande. Vedo che ce n'erano in lizza anche altri. De Stefani, allora, compro la caldaia nuova per la casa, rifaccio tutti gli infissi, questi lavori mi danno il diritto ad un abbattimento della spesa del 55%. Mi dice qual è la procedura che devo seguire per poter correttamente avvalermi di questa opportunità? Certo. Allora, prima dell'inizio dei lavori non è necessario inviare alcuna comunicazione al centro operativo di Pescara. Non è necessario in questo caso. Questo adempimento è necessario solo per l'agevolazione del 36%, quindi per le ristrutturazioni edilizie senza il risparmio energetico. Questo significa che non devo fare neanche la DIA, la dichiarazione di inizio attività al comune? Sì, in alcuni casi, poi dipende dal singolo comune, dai regolamenti comunali, per la ristrutturazione edilizia sicuramente, per la manutenzione straordinaria dipende un po' di casi, per quella ordinaria spesso non è necessaria, è necessaria una semplice lettera di comunicazione al comune. Però questo non influenza la detrazione fiscale né del 36 né del 55%. Ai fini del 36% è comunque necessario inviare prima dell'inizio dei lavori questa comunicazione al centro operativo di Pescara. Rimaniamo al 55%, che è il tema della nostra puntata di oggi. Per il 55% è necessario acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato alla progettazione di edifici, quindi un ingegnere, un architetto, un geometra e così via, che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti di legge e quindi il livello di intermittenza termica che sia abbastanza, che sia sufficiente per ottenere questi incentivi. Poi è necessario effettuare i bonifici bancari o postali indicando nella causale di pagamento il codice fiscale del beneficiario dell'agevolazione, il codice fiscale del beneficiario del bonifico e la causale appunto di pagamento, ad esempio la detrazione fiscale detrazione di IRPEF del 55% in base alla legge 269 del 2007. E poi bisogna conservare questi documenti se continui i lavori anche nel 2011, devo ricordarmi entro il prossimo 31 marzo 2011 di inviare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate che i lavori non sono terminati alla fine di quest'anno. Benissimo. Enrico da Padova, buongiorno. Buongiorno. Volevo chiedere informazioni. Io dovrei ampliare la soffitta, quindi renderla abitabile. Sì. Volevo chiedere cosa potevo usufruire per il 55%. Lavori allora, travano. Ingegnere Erba, che cosa gli facciamo fare in questa soffitta che lui, a cui Enrico vuole dare l'abitabilità? Allora, una prima domanda che faccio a Enrico è se la soffitta va ad ampliare un appartamento già esistente dotato di impianto di riscaldamento, è una soffitta nella quale vuol fare un nuovo locale con un nuovo impianto. Enrico. Esatto, un nuovo locale voglio fare. Un nuovo locale con un nuovo impianto. Allora lì potrebbero esserci dei problemi, nel senso che per le detrazioni del 55% l'immobile deve essere accatastato e già dotato di impianto di riscaldamento. Quindi per questo che io le chiedevo questo, perché sarà un immobile nel quale io andavo ad ampliare, quindi mettere qualcosa in più, un locale o due locali in più, avevo comunque un impianto già esistente che magari modificavo, allargavo. Nell'altro caso io devo andare a inserire un nuovo impianto. Allora in questo caso l'inserimento nel nuovo impianto non può rientrare nelle detrazioni fiscali, perché non è una sostituzione di impianto già esistente. Mentre invece tutti quelli che possono essere gli interventi di isolamento potrebbero un po' con belle virgolette, perché rientriamo sempre nel caso di prima, non è un immobile già dotato di impianto di riscaldamento, però potrebbero rientrare come isolamento di edificio già esistente e quindi però, è una cosa un pochino più complessa, diventa un po' più complesso. C'è comunque una FAQ sul sito dell'Enea nella quale si specifica meglio appunto questo discorso, quindi io consiglio di andare comunque sul sito dell'Enea, che è efficienzaenergetica.acs.enea.it, e vedere sulle FAQ c'è proprio un quesito che riguarda le soffitte o comunque gli ampliamenti di volume. Benissimo, grazie ingegnere Erba. Cristiano, allora noi peraltro di questa guida che esce questa mattina abbiamo detto tanto, ma in realtà abbiamo parlato solo una minima parte. C'è qualche altro, secondo te, aspetto da sottolineare ai nostri ascoltatori? Perché il tema è che molto spesso, insomma, pensiamo di ristrutturare l'abitazione, ovviamente la prima cosa che ci viene in mente è di intanto cercare ovviamente l'impresa che ci faccia spendere il meno possibile. Certo. Subito ci guardiamo intorno, quale sarà il miglior colore della piastrella più bella per la cucina o il miglior legno per il parquet, ma a tutta la tematica del minor consumo possibile della casa pensiamo per ultimo. Certo, guarda, la lezione che forse si può dare, anche quella che noi abbiamo cercato un po' così di trasmettere con questo lavoro, è proprio quella di porre magari un pochino più di attenzione agli aspetti tecnici che spesso vengono un po' trascurati. Anche oggi l'abbiamo visto, la maggior parte dei dubbi riguardano giustamente le procedure fiscali, l'iter da seguire per una detrazione piuttosto che per un'altra, il che è giusto, è comprensibile, anche perché queste sono poi le pratiche con cui il proprietario si confronta. Però prima di decidere i lavori, quello che possiamo dire è cercare di valutare un pochino meglio le caratteristiche del proprio edificio e capire se e dove ci sono margini per risparmiare. Noi oggi non abbiamo parlato ad esempio del solare termico per la produzione dell'acqua calda. Ecco, questa è una tecnologia che è ampiamente rodata, che ha dei costi non eccessivi, nel senso che siamo per un impianto di carattere domestico sotto decisamente i 10.000 euro, e che nel momento in cui si dovesse rifare tutto l'impianto sanitario con la caldaia non è troppo complicato integrare. Quindi valutare anche queste possibilità e non fermarsi soltanto alla ristrutturazione o alla sostituzione degli infissi, che è l'intervento più semplice e non a caso è quello che è stato fatto in metà delle pratiche del 55% in questi primi anni. Ecco, questa è forse la lezione che si può imparare. Ci sono, qualcuno l'abbiamo anche citato nella nostra guida, ci sono su internet anche dei software che sono scaricabili gratuitamente e che permettono anche a un non addetto ai lavori, inserendo alcune caratteristiche base della propria abitazione, di capire quali sono a grandi linee le sue prestazioni, le sue caratteristiche, quindi i margini di intervento, di miglioramento che questo, ci sono. Questo non può sostituire la valutazione di un tecnico, però ci permette di capire se vale la pena di approfondire, di prendere il discorso, coscienza del problema. Esatto. Grazie a Cristiano Dell'Oste, ingegner Valeria Erba, Luca De Stefani per essere stati con noi. Salva Danaio torna domani. A tutti buona giornata.